Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Guglielmo Miani. Tessuti, sarti e abiti nuovi. Di Alessandra Scaglioni. Larus Miani è un marchio che produce tessuti di lusso venduti a stilisti e confezionisti in Europa, America e Cina e che produce anche abiti. Il settore dei tessuti è quello che è cresciuto maggiormente, ma l'azienda nasce da un'attività di sartoria. Dunque, Larus Miani nasce nel 22, quando mio nonno dal sud emigra a Milano e apre la sua prima sartoria, la sua prima bottega sartoriale a Milano. Inizia a confezionare capi su misura, sia abiti che impermeabili, e da lì infatti Larus, il nome Larus, non esiste un signor Larus, ma benché Larus invece vuol dire gabbiano in latino, e quindi da lì, siccome il gabbiano ha queste piume impermeabili, da lì il nome, visto che faceva e confezionava su misura sia abiti che impermeabili, da lì il nome Larus. Il lavoro sulla confezione vede negli anni 40 e 50 l'apertura di 4 boutique a Milano, di cui una, nel 1954, in via Monte Napoleone. Ma nel frattempo si sviluppa il settore parallelo legato ai tessuti, prima con l'importazione, poi con la produzione. Da lì l'azienda si evolve, perché oltre alla sartoria nasce anche una divisione tessuti che importa i tessuti inglesi. Diciamo, siamo negli anni 40, quindi i tessuti inglesi erano all'epoca i più prestigiosi, più pregiati, e tutti i sarti italiani usavano i tessuti inglesi. Diventa il più grande importatore di tessuti inglesi, e poi da lì inizia un percorso, quindi sia di sartoria che continua, sia di confezione. E oltre a questo, diciamo, con la venuta di mio padre Riccardo, che non ha amato il negozio più di tanto, nel senso che è stato messo alla cassa quando aveva 14 anni, ha amato molto di più i tessuti e ha sviluppato tutta una collezione, quindi partendo dalla creatività di una collezione italiana di tessuti italiani che potesse essere, diciamo, in linea con le aspettative degli stilisti che stavano nascendo negli anni 70, e quindi crea proprio una divisione tessuti italiana. Oggi l'azienda lavora principalmente sul tessuto. Alla guida Guglielmo Miani, terza generazione, stesso nome del nonno. Oggi infatti l'azienda è un po' atipica, perché parte dalla sartoria e invece arriva nel tessuto. Invece molte aziende del Made in Italy hanno fatto il passaggio opposto, sono arrivati dai tessuti e hanno creato un impero legato all'abbigliamento, al prodotto finito. I tessuti oggi sono il core business dell'azienda ancora, addirittura negli ultimi 4 mesi abbiamo fatto più 40%, quindi sono un business che non solo è un business profittevole, ma anche un business che continua a crescere, anche grazie forse alla creatività che mettiamo all'interno di questa collezione e ai mercati comunque che ci sono, che si stanno comunque evolvendo. La divisione tessuti ha il 40% del suo mercato in Italia. Per il resto esporta per gli stilisti europei e internazionali. Divisione tessuti, siamo più del 60% export, quindi ormai è un business consolidato e globale, direi. Abbiamo anche dei paesi che si stanno sviluppando molto bene, come dicevo la Cina è un mercato che addirittura ha superato di gran lunga gli Stati Uniti in termini di volumi d'affari e quindi continua a crescere, tant'è vero che abbiamo ulteriormente sviluppato la rete commerciale nostra sul paese, sulla Cina, proprio per prendere questa tipologia di nuovi clienti. E anche la lavorazione è organizzata tra Italia ed estero. A livello tessuti, ovviamente oggi non è più possibile controllare la catena di valore, cioè parlandoci diciamo chiaramente della catena, il filare in Italia è diventato purtroppo non economico, quindi spesso i filati vengono lavorati e fatti all'estero. Però le materie prime sono acquistate in Italia e vengono spedite in queste nostre strutture, che sono tutte strutture di nostri partner, dove spesso saturiamo la loro produzione almeno del 50%, quindi abbiamo un controllo di un certo tipo, e poi vengono ovviamente rispediti in Italia per la tessitura, il finissaggio, la tintura di questi tessuti. Ma Guglielmo Miani, a differenza del padre, ha una passione diversa, quella del prodotto finito. un settore che sta sviluppando, acquisendo tra l'altro una sede di produzione in Toscana. Ho fatto 10 anni nella divisione tessuti, abbiamo cresciuto molto l'azienda, siamo passati, diciamo, abbiamo raddoppiato il giro d'affari dal 2003-2004, da quando sono stato, diciamo 2005, da quando sono amministratore delegato, e quindi direi che ci siamo ritagliati una posizione di leadership ancora più forte per quanto riguarda tessuti, ovviamente di alto livello, di nicchia, con un alto contenuto creativo che per l'appunto anche i cinesi ci comprano, e ci comprano tanto. E ho desiderato moltissimo, e finalmente sono riuscito, dopo 2 anni di lavori dietro le quinte, a svelare il mio nuovo piccolo sogno, che è stato quello di riposizionare il brand Larus Miani, quello che era nato dalla sartoria, che è sempre rimasto come un brand milanese. Ho voluto creare un qualcosa, secondo me, che oggi non c'è più. Larus Miani, parlo appunto della parte abbigliamento, oggi può avvalere di un know-how fortissimo sui tessuti, quindi la creatività tessile, perché tutto parte da lì. Oltre a questo, ha una sartoria con 40 mastri sarti in Toscana, e con questi sarti riesce a creare dei capi, non solo abiti, non solo giacche, ma anche camicie, anche giacche sportive, prodotti che solitamente non provengono dalla sartoria, ma che oggi comunque lo sportswear, anche nell'altissimo di gamma, è un prodotto che è in fortissima crescita. Siamo riusciti a creare una collezione interamente fatta a mano. Abbiamo iniziato ovviamente con la nostra boutique di Via Monte Napoleone, dove è stata completamente rifatta, e a gennaio del 2011 abbiamo aperto uno showroom sopra, oltre a questi 700 metri quadri, sull'angolo, diciamo, di Via Monte Napoleone e Via Verri. Abbiamo aperto uno showroom per iniziare ad intavolare dei discorsi di partnership a livello internazionale, perché ovviamente un prodotto di nicchia come quello che è fatto da Larus Miani ha per forza uno sbocco, deve avere uno sbocco internazionale, non nazionale. Abbiamo iniziato a intavolare delle partnership con alcuni partner strategici, in particolare i paesi come la Russia, l'Arabia Saudita hanno già acquistato, e ovviamente questo è un prodotto che ha una collocazione di nicchia molto molto specifica, si parla di un prodotto di altissimo livello senza compromessi, e quindi ovviamente i partners per questo tipo di progetto sono ovviamente limitati, nel senso che non pensiamo di aprire 100 punti vendita in tutto il mondo, ma piuttosto di selezionarne 1-2 per paese strategico. In gli altri paesi, oltre a questi che riteniamo strategici, sono sicuramente Hong Kong, che è comunque la porta di entrata anche dei cinesi, anche i cinesi stessi vanno a Hong Kong a fare shopping, e gli Stati Uniti, e poi l'Europa in generale. Andare all'estero, infatti, per le aziende di medie dimensioni può essere difficile ed è necessario seguire una strategia precisa. Ma io credo che sicuramente avere un prodotto forte, un concetto forte di nicchia, può essere un qualche cosa che facilmente può essere esportabile. Certo, i costi per andare a penetrare questi mercati, lontani o vicini che siano, comunque sono elevati, quindi bisogna cercare di focalizzare le proprie energie, le proprie risorse su quei mercati che possono dare più soddisfazioni, a mio avviso. Questa è un po' la mia opinione a riguardo, cioè è vero che è possibile andare, essendo una piccola azienda, all'estero, soprattutto avendo appunto un concetto forte, però è vero anche che i mercati ormai sono globali, sono dove ci sono tantissimi concorrenti, dove ci sono tanti players, e soprattutto dove la visibilità è quella soglia minima che è necessaria per far sì che il marchio venga riconosciuto e venga conosciuto. Ecco, quella soglia minima deve raggiungerla, e a volte il raggiungimento di quella soglia minima ha un costo. Un centinaio di dipendenti, fatturato intorno ai 20 milioni di euro, andamento positivo dopo la crisi del 2009. Sicuramente il 2009 non è stato un anno positivo, il 2010 invece lo è stato, e il 2011, come dicevamo prima, sia a livello tessile, dove abbiamo avuto un ottimo riscontro nei primi 4 mesi, e questo è anche un buon riscontro per il settore in generale, perché i tessuti vengono venduti, come dicevo, agli stilisti un po' in tutto il mondo, e quindi vuol dire che comunque c'è un fermento, c'è una voglia di creare, di produrre delle cose nuove, innovative, e anche ci sono i numeri che li supportano. E nel settore la crisi si è sentita in diversi modi. Sulle materie prime abbiamo avuto dei grossi problemi perché il cotone ha avuto un momento in quest'ultimo anno di grandissima speculazione e quindi è più che raddoppiato, se non di più, il valore del cotone sodo, per esempio, così come del cashmere, della seta, tutte le materie prime across the line sono aumentate. Questo non ha sicuramente aiutato, però il fatto di avere comunque un mercato che continua a comprare vuol dire che i clienti là fuori stanno comprando e quindi i prodotti stanno uscendo dai negozi. Il passaggio generazionale, momento delicato per le aziende familiari, c'è già stato. Guglielmo Miani ha 34 anni, 2 figli e l'intenzione di portare avanti in prima persona l'azienda. Mio padre, quando mi sono laureato, sono tornato negli Stati Uniti, mi ha fatto una proposta, mi ha detto: guarda, io ho un'opportunità di vendere l'azienda, vuoi l'azienda o vuoi, diciamo, una disponibilità per fare quello che vuoi? Io ho scelto l'azienda, quindi sono assolutamente convinto che in questo mercato, parlo dei tessuti e parlo soprattutto della moda e dell'abbigliamento, c'è tantissimo spazio. Io credo che il mercato vada sempre di più in questo senso. I clienti non sono più i clienti che hanno, diciamo, fatto i soldi negli ultimi 2-3 anni e quindi vogliono spendere e comprare la cosa più cara tanto per comprarla e per dire che ce l'hanno, ma sono sempre più sofisticati, sono sempre più informati e quindi forse i prodotti devono avere una valenza maggiore, quindi il valore che tu acquisti è sempre più importante rispetto all'immagine che ti dà. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.